Ambiente di lavoro stimolante. Scopri di più su sanmarcoinformatica.com e su jgalileo.com. Effetto giorno di Simone Spezia. Las Vegas, spari sulla folla che assisteva al concerto country, 50 vittime, 200 feriti. La Catalogna verso la dichiarazione di indipendenza, Madrid dice useremo tutta la forza della legge. Scende la disoccupazione all'11,2%, 36.000 gli occupati in più in agosto. Il Nobel per la medicina, tre americani per le ricerche su orologio biologico e ritmi del sonno. Una buona giornata, bentornati a Effetto Giorno, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia, dall'altra parte del vetro Laura Faggin per la parte redazionale, Andrea Roccabella per la parte tecnica, 349-238-6666 per i vostri sms e per i messaggi su WhatsApp e come sempre la nostra pagina Facebook, la pagina Facebook di Radio 24, dalle quali andiamo anche in diretta video, quindi se ci volete anche vedere ci trovate là e potete anche commentare durante la diretta Facebook se lo ritenete opportuno. In apertura dunque andiamo a Las Vegas per la sparatoria di questa notte. Siamo in linea con Mario Platero per un aggiornamento. Mario, buongiorno. Buongiorno Simone. Beh sì, l'aggiornamento devo dire alquanto tragico, perché il numero dei morti è salito a 50, 200 feriti. C'è questo sceriffo Joseph Lombardo che da le notizie, l'unica cosa certa è che non, almeno per ora, perché l'inchiesta procede, ma non si tratta di un attacco terroristico, è stato identificato il colpevole Steven Paddock, che è un uomo di 64 anni, anche la dinamica è piuttosto curiosa, questo signore era al 29esimo o al 32esimo piano, sembra, di questo albergo, il Mandalay Hotel Casino a Las Vegas. E sotto questo albergo, per strada, sulla Route 91, sulla strada 91, c'era un festival, Harvest Festival, di musica country. Stava suonando questo cantante Jason Alden, c'erano migliaia di persone e a un certo punto dall'alto, perché questo signore evidentemente ha aperto una finestra e sparava dall'albergo, ha cominciato a smitragliare sulla folla. È stata una scena tragica, ci sono dei video che girano, il cantante Jason Alden che fuggiva sul palco, insomma una scena davvero drammatica. È rassicurante che non si tratti di un attacco terroristico, non è rassicurante che in America continuino a capitare cose di questo genere, questo tra l'altro con 50 morti e uno, e forse il numero salirà ancora tra l'altro, perché alcuni dei feriti sono molto gravi, è uno dei più gravi attacchi alla popolazione di terrorismo interno, perché ormai si parla di terrorismo interno. Conferma la necessità di mettere al bando le armi, ma questa cosa soprattutto con l'amministrazione Trump non credo succederà, Simone. Io ti ringrazio, grazie a Mario Platero per questo aggiornamento. Mario Platero, come sempre, lo ritroveremo più avanti in America 24, America 24 che oggi sarà dedicata ad altri argomenti. L'aggiornamento su Las Vegas l'abbiamo dato adesso e naturalmente continueremo a darvi aggiornamenti appena ne avremo nel corso di Effetto Giorno. Ci spostiamo adesso in Catalogna, all'indomani del referendum. Siamo in linea con il nostro inviato Sergio Nava. Sergio, buongiorno. Buongiorno Simone, qui la situazione è più chiaramente meno tesa rispetto a ieri, dopo i fatti di violenza contro la popolazione da parte della polizia spagnola. La palla al momento è in mano alla politica, premesso che chiaramente oggi a mezzogiorno ci sono varie concentrazioni di protesta un po' in tutta la regione, qualcuna qui anche a Barcellona, gente che si trova per strada o davanti ai municipi per protestare contro la repressione di ieri. Passando alla politica, è un giorno abbastanza cruciale perché c'è una riunione in corso della governa, della Generalitat catalana, che dovrà ovviamente anche decidere un po' i prossimi passi, ma soprattutto si riunisce oggi la Giunta e il Parlamento catalano, che dovrà fissare la prossima seduta nella quale si inizierà nei fatti il processo indipendentista e che verrà di fatto dichiarata l'indipendenza unilaterale della Catalogna dalla Spagna. Mentre a Madrid invece il Premier Mariano Rajoy vedrà oggi i leader dei principali partiti, partendo da Pedro Sánchez, il leader del Partito Socialista, ma anche il Partito anche Albert Rivera, che è il partito Ciudadanos, che è il partito liberale contrario alla secessione della Catalunya. Quindi diciamo che si stanno posizionando un po' i vari blocchi in vista di una settimana che si annuncia cruciale, domani sciopero generale qui in Catalunya contro a favore dell'indipendenza e contro la repressione di polizia. Noi oggi vi diamo però anche la voce di chi è contro qui all'interno della società civile contro l'indipendenza. C'è ovviamente una vasta parte della popolazione a favore, però c'è anche una importante parte contro. Abbiamo intervistato Miriam Tei, che è vicepresidente della Società Civile Catalana, che è appunto un'organizzazione civica contro l'indipendenza. Con questo vi saluto da Barcellona, è tutto. Ieri è stato un giorno tristissimo. Abbiamo visto come la società civile catalana è stata dividita per le responsabilità del governo catalano. La polizia è stata impegnata a cumplire il suo dovere, che è garantire la democrazia e la legge. E questo ha portato la polizia a fare delle cose che sono assolutamente sicure, che non neanche loro volevano fare e che neanche loro aspettavano. Una posizione così violenta da parte della società nazionalista di Catalunya. Così dunque il nostro inviato a Barcellona Sergio Nava. Veniamo alle reazioni che oggi arrivano, soprattutto almeno in questo momento della giornata, dall'Europa. Questi sono i tempi per l'unità, non per la divisione. Chiediamo ad entrambe le parti di muoversi velocemente da una situazione di conflitto al dialogo. Dopo il silenzio delle ultime ore in attesa della plenaria di Strasburgo, parla il portavoce della Commissione europea, Margaritis Schinas, il quale chiarisce che per le istituzioni di Bruxelles la violenza non è lo strumento in politica per risolvere le questioni. Ribadisce però che il referendum, secondo Bruxelles, è illegale e che si confida che Mariano Rajoy possa gestire la situazione nel rispetto dei diritti umani previsti dalla Costituzione. Intanto a far sentire subito la loro voce erano stati gli indipendentisti, con la premier scozzese Nicola Sturgeon, che ha invitato le autorità di Madrid a lasciare votare liberamente, e i socialisti, con le nette parole di condanna delle violenze del numero uno del Labour, Jeremy Corbyn. Dall'Italia poco fa le parole del capo dello Stato Mattarella, il quale ha spiegato che quando prevalgono scontro ed esasperazioni si allontanano le soluzioni positive. Dai partiti politici unanime condanna della violenza, più variegata la posizione sul referendum, con la Lega che ha preso le distanze. Nessun collegamento, dice Salvini, tra il voto catalano e il referendum consultivo lombardo-veneto per l'autonomia che si terrà il 22 ottobre, il quale avviene, dice, nel solco della Costituzione. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore. E siamo al Nobel per la medicina, assegnato oggi. The 2017 Nobel Prize in Physiology or Medicine jointly to Jeffrey C. Hall, Michael Rosbach and Michael W. Young. Sono tre studiosi americani. Adriana Fracchia, buongiorno. E che cosa hanno scoperto? Che cosa hanno studiato? Sì, buongiorno Simone, buongiorno agli ascoltatori. Sono appunto, come hai detto, tre ricercatori americani. Ricordiamo Jeffrey C. Hall, Michael Rosbach e Michael W. Young, i vincitori del Nobel di questa edizione 2017 per la medicina. Il loro merito è di aver scoperto il meccanismo molecolare che controlla il ritmo circadiano, ossia il comportamento dell'orologio biologico degli esseri viventi. I tre scienziati hanno dimostrato, a partire dagli anni 80, come funziona appunto il nostro orologio interno, che regola i ritmi del sonno, il comportamento alimentare, il rilascio degli ormoni e la pressione sanguigna. La vita sulla Terra, si legge nella motivazione, si è adattata alla rotazione del pianeta e gli esseri viventi, uomini compresi, hanno sviluppato dunque un orologio interno che li aiuta ad adattarsi al ritmo regolare del giorno e della notte. E come funziona esattamente questo meccanismo lo hanno scoperto proprio Hall, Rosbach e Young, che sono riusciti a guardare all'interno di questo orologio. Ma sentiamo Roberto Manfredini, il direttore del Dipartimento di Scienza Medica dell'Università di Ferrara ed esperto di cronobiologia clinica, intervistato da Nicoletta Carboni in Obiettivo Salute. Nel mondo della scienza non è una novità che i ritmi circadiani dell'individuo sono regolati a livello genetico molecolare, ma un conto è nel mondo ristretto degli scienziati e un conto che l'Accademia del Premio Nobel abbia deciso di consacrare nel mondo questa notizia, che sdogana tanti ricercatori che avevano creduto in questo già nei primi anni 80, e grazie a Mike Young e ad altri come lui, quando nell'86 descrisse per la prima volta nel moscerino la mutazione su un cromosoma, che voleva dire che c'erano dei geni deputati esattamente ai ritmi circadiani. Ecco, questo Manfredini, appunto, per spiegarci qual è l'importanza di questa scoperta. Da quest'anno ricordo che il premio Nobel ammonta a 9 milioni di corone svedesi, pari a circa 940 mila euro da dividersi tra tutti i vincitori, al massimo 3 per ogni premio. Ed è tutto. Grazie dunque ad Adriana Fracchi anche per questo aggiornamento. Siamo ai dati che arrivano dall'Italia sulla disoccupazione. I dati si riferiscono ad agosto, quando l'Istat certifica un aumento degli occupati di 36.000 unità rispetto a luglio e di 375.000 rispetto ad agosto 2016. Il tasso di occupazione sale al 58,2%, con l'occupazione femminile che sfiora ad agosto il 49%, segnando un nuovo massimo storico. L'altra faccia, quella della disoccupazione, con il tasso che scende sempre ad agosto all'11,2%, ed è incoraggiante il dato sulla disoccupazione giovanile, che scende al 35,1%, con un calo di 0,2 punti percentuali rispetto al mese precedente e di 2,2 punti rispetto al 2016. Il commento del ministro del lavoro Giuliano Poletti: migliorano i dati relativi al lavoro delle donne e dei giovani, con un tasso di disoccupazione che resta però ancora troppo elevato. Per questo intendiamo intervenire con misure specifiche nella prossima legge di bilancio. Sono spariti i gufi anti-Jobs Act, esulta su Facebook il segretario del PD Matteo Renzi. L'ex premier omette di dichiarare che presunti nuovi posti di lavoro sono 97% precari o magari solo di poche ore, precisa invece il capogruppo di Forza Italia Renato Brunetta. Maria Piera Ceci, Radio 24, Il Sole 24 Ore. È fallita nella notte la compagnia inglese Monarch. Dopo Alitalia e Air Berlin, un'altra compagnia aerea, stavolta inglese, ha gettato la spugna. Nella notte, l'ente del traffico aereo britannico ha annunciato che la low cost Monarch ha cessato le operazioni, lasciando a terra tutti i velivoli assieme a 110.000 passeggeri, in buona parte ora bloccati all'estero. Oltre 300.000 prenotazioni sono state cancellate. Il governo britannico ha subito iniziato la più grande operazione di rimpatrio del dopoguerra, mobilitando una trentina di aerei per poter riportare a casa i viaggiatori rimasti bloccati oltre confine. Monarch, compagnia charter fondata 50 anni fa nel Regno Unito, aveva la sua base nell'aeroporto di Luton, vicino a Londra. Colpito come altri vettori dalla rivoluzione low cost, è stato anche sfortunato per il crollo della domanda su tratte cruciali per la compagnia, come quelle per Egitto e Turchia. Dalle sue quattro principali basi britanniche trasportava circa 6 milioni di passeggeri l'anno su oltre 40 destinazioni, 5 delle quali in Italia: Roma, Fiumicino, Napoli, Torino, Venezia e Verona. Enrico Marro, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Torniamo all'estero per parlare della situazione dei Rohingya in Bangladesh, la minoranza musulmana che sta fuggendo dal Myanmar, dall'ex Birmania. Una situazione disastrosa, dice il portavoce dell'UNICEF Andrea Iacomini al microfono di Valentina Furlanetto. Attualmente rappresenta l'emergenza umanitaria più grave del pianeta. Ci sono centinaia di migliaia di Rohingya che in fuga in Bangladesh. Quello che a noi preoccupa di più sono innanzitutto le condizioni di fuga, nel senso che sono persone che non hanno nulla, sono molto povere, ma soprattutto la metà di loro sono bambini. Ecco perché noi, proprio al confine tra i due paesi, tra il Myanmar e il Bangladesh, abbiamo allestito degli spazi, dei centri di raccolta, per cercare naturalmente di accoglierli e dare loro quello che serve, ossia servizi igienici immediatamente, vaccini, perché in queste condizioni si rischiano moltissime malattie, tra cui il colera. A chiudere questa prima parte della trasmissione, come quasi tutti i lunedì, una pagina sportiva piuttosto ampia che tiene dentro molte cose, a partire naturalmente dalla giornata di campionato. Carlo Genta, ciao. Ciao Simone, buongiorno a tutti. Beh, giornata di campionato prima della sosta che ci ha regalato un sacco di temi. A cominciare dalla Juventus che rallenta la sua corsa a Bergamo, che era sopra 2-0, si fa rimontare, poi sbaglia un rigore nel finale con Dybala, VAR protagonista della domenica, convince un po' sì, un po' no. Ci sono già polemiche intorno a questo strumento tecnologico che doveva spegnere le polemiche e invece no, come ampiamente previsto. Il Napoli va sul velluto con il Cagliari, bello, essenziale, spettacolare, decisivo. Questo Napoli all'insegna di Hamsik, il capitano, di Mertens, che oggi è forse il miglior giocatore del campionato italiano, e si trova lassù da solo. L'Inter invece non piace quasi a nessuno, tifosi interisti compresi, ma continua a vincere ed è pari alla Juventus. Altro tema è quello del Milan, che perde in casa con la Roma, che ha dato l'impressione di essere squadra di altra categoria. Partita non bella, però la Roma ha Dzeko, ha i muscoli, ha la solidità, ha i giocatori più adatti rispetto al Milan, che rimane comunque un progetto in fase di costruzione, e siamo alla terza sconfitta stagionale, e sono tante in sette partite. E questi grosso modo i temi calcistici, senza dimenticare, ce la dimentichiamo anche troppo spesso, la Lazio, che ne infila 6 al Sassuolo dopo essere passati in svantaggio. Alla ripresa del campionato avremo grandi partite come Roma-Napoli, sì, come il derby di Milano e come Juventus-Lazio. Gran bella squadra la Lazio, detta da un romanista. Bisogna ammettere sportivamente che le romane, comunque mettiamocele tutte e due, corrono per la Champions League. Carlo, un'ultima nota a margine, è una piccola storia perché ormai di questo sport non si interessa quasi più nessuno, e però è una bella storia quella di Dettori. Sì. Vince l'Arc de Triomphe per la quinta volta, non era mai successo nella storia. L'Ippica è uno sport morente, forse morto in Italia, però abbiamo questo grande talento che ha compiuto un'impresa mai vista prima nella storia, 5 volte Arc de Triomphe, che è insomma il mondiale per quanto riguarda l'Ippica, la corsa più prestigiosa che esista. Non l'avevamo mai visto, e Dettori è un momento di record, fa il paio con, una settimana fa, il terzo mondiale consecutivo di Sagan nel ciclismo. Insomma, imprese mai viste prima, questo può essere il titolo di sto capitolo. Grazie Carlo Genta, ti ritroviamo ovviamente come sempre alle 14 in tutti i convocati. Adesso il traffico, ci ritroviamo subito dopo. Il nostro giro per l'Italia partirà da una storia che, dobbiamo dire la verità, ci ha colpito. Una donna è morta nell'ospedale di Desio per avvelenamento. Questo avvelenamento sarebbe avvenuto a causa, abbiamo scoperto, degli escrementi di piccioni, e altre 3 persone sono ricoverate per lo stesso motivo nello stesso ospedale, di cui 2 molto gravi. A tra poco. Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Vi presenta Effetto Giorno. Effetto Giorno, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia. Nella prima parte della trasmissione abbiamo parlato della sparatoria a Las Vegas, le vittime accertate sono 50, al momento è 200 i feriti, della Catalogna che va verso la dichiarazione di indipendenza, ma arrivano dichiarazioni proprio in questi minuti del presidente catalano Puigdemont, che chiede una mediazione internazionale con Madrid proprio sulla crisi catalana. Ci siamo occupati della disoccupazione che scende all'11,2%, del per la medicina e anche di calcio. Adesso iniziamo il nostro giro per l'Italia, e iniziamo da questa storia che insomma vi abbiamo già accennato prima della viabilità. È una vicenda che arriva da Desio, ma che trae dall'ospedale di Desio, ma trae le sue origini in realtà ad Udine, ed è la vicenda di una donna che ha passato un periodo di vacanza in una casa di campagna in provincia di Udine le è stato riscontrato un avvelenamento da taglio e ha perso la vita. Che cosa è successo? È successo che i carabinieri in questo momento indagano, e tra le ipotesi hanno messo quella che questo avvelenamento possa dipendere dall'aver inalato o in qualche modo essere entrata in contatto con escrementi di piccioni secchi. Ora, sono sincero fino in fondo, a me i piccioni non piacciono per niente. Detto ciò, vogliamo capire se ci può essere qualcosa di vero oppure no, se è un'ipotesi credibile questa oppure no. Nicola Vincenzo Orfeo, il direttore sanitario dell'ospedale di Desio, forse non ci potrà dare una risposta definitiva, però forse una traccia di idea ce la può dare da questo punto di vista. Orfeo, innanzitutto buongiorno. Buongiorno a lei, radioascoltatore. Le chiedo la cronaca, partirei dalla cronaca, ossia c'è questa persona che ha perso la vita e ci sono in realtà altre 3 persone che sono ricoverate con gli stessi sintomi e provenienti dallo stesso luogo nel vostro ospedale, no? Sì, la signora deceduta purtroppo questa mattina è stata la persona sicuramente in condizioni più gravi. E il giorno 28 è giunta da noi con un secondo accesso, perché bisogna dire che sia lei che la sorella erano già venuti presso il nostro pronto soccorso il giorno 25, ma con sintomi molto sfumati, per cui sono stati dimessi per un sospetto di gastroenterite. Invece il giorno 28 la signora è arrivata con una sindrome neurologica, quindi con dolori diffusi, e mentre era in pronto soccorso ha avuto un arresto cardiocircolatorio. A distanza di poco è arrivata anche la sorella, accompagnata al 118, e da qui è scattato il sospetto che ci potesse essere qualcosa di molto più grave. È stato contattato il centro antiveleni di Pavia, che ci ha confermato il sospetto di questo avvelenamento da talio. È stato fatto subito, stati interessati subito i carabinieri, è stato fatto referto all'autorità giudiziaria, e da lì si è messo in moto un meccanismo per cui nel frattempo abbiamo ricoverato anche i genitori anziani ed è stata anche visitata la badante. Ricordiamo che il tallio è una sostanza che è stata utilizzata storicamente anche per topicidi, insetticidi, oltre che come vero e proprio veleno. C'è una possibilità che sia effettivamente contenuto negli escrementi di piccioni? Non le chiedo un dato preciso per quanto riguarda queste persone, però per capire se effettivamente un collegamento, per quanto tenue, si può reperire. Guardi, non sono un esperto in materia e dei piccioni ho letto sulla stampa, un po' come voi. Il centro antiveleni ci ha allertati perché il taglio era presente come solfato di taglio nei ratticidi, nei topicidi, fino a un po' di anni fa. Quindi il dubbio posto da parte nostra era un'intossicazione da parte di questi veleni qui. Adesso sui piccioni, sull'ipotesi che è stata portata, poi dopo sinceramente non saprei darle notizie, bisognerà vedere, ci sono indagini in corso. E vedremo quel seguito. Dunque vedremo su questo tema, vogliamo ricordarlo ancora una volta e la ringrazio, grazie a Nicola Vincenzo Orfeo, direttore sanitario dell'ospedale di Desio. Su questo tema, per essere chiari rispetto ai titoli che vedrete in giro, non abbiamo ancora alcuna certezza. Siria Trezzi, sindaco di Cinisello Balsamo, buongiorno, bentornata ai nostri microfoni. Buongiorno a voi. La storia qual è? Che c'è stato un incendio oggi a Cinisello Balsamo, un incendio in un deposito di rifiuti, in una discarica. Abbiamo chiesto... No, in un capannone di stoccaggio di rifiuti non tossici. Non tossici, non pericolosi. Quindi su questo quindi siamo tranquilli che non sono tossici e pericoli per i cittadini, nonostante l'odoraccio non ce ne dovrebbero essere, mi sembra di aver capito, no? Sì, c'è anche una comunicazione formale di ARPA, le rilevazioni che sono state fatte dai tecnici dei vigili del fuoco e dai tecnici di ARPA non rilevano la presenza di sostanze nocive all'interno della nube. Noi in via precauzionale abbiamo chiesto a chi abita lì attorno, e fortunatamente non sono tanti perché è una zona industriale e le attività attorno comunque continuano a funzionare, di tenere le finestre chiuse, ma per la questione, come dire, per una questione ospattiva e perché c'è la nube. Sì. Da ricordare qua che cosa che riguarda relativamente ovviamente l'amministratore locale dello specifico comune, che un incendio simile si era sviluppato nei mesi scorsi sempre nel Milanese in un luogo di stoccaggio di rifiuti della stessa azienda, e da ricordare, ci siamo fatti fornire questa mattina i dati dai vigili del fuoco perché di episodi di questo genere ne vediamo sempre più spesso, ci siamo fatti fornire dei dati dai vigili del fuoco, dei dati nazionali che ci indicano che il totale di incendi ed esplosioni che si sono verificati in discariche autorizzate in luoghi aperti sono stati 129 nel 2015, 296 nel 2016, e ad oggi, anche se questi dati non sono completi, vanno riclassificati, va rivisto, probabilmente saranno rivisti al ribasso, sono 353 fino ad oggi, e in Lombardia passiamo da 22 a 43 ad 80, quindi sono raddoppiati ogni anno dal 2015 al 2017. Da amministratore locale, come li legge questi dati, Trezzi? Sono dati significativi, nel senso che se c'è questo aumento di incendi, ovviamente insomma c'è un tema, c'è un problema che va affrontato. Noi da questo punto di vista lo affrontiamo con gli strumenti che abbiamo, cioè quello dei controlli, quello delle autorizzazioni e insomma quelle che sono a nostra disposizione. Qui insomma i dati devono mettere sotto la lente d'ingrandimento un pochettino questo tema, non solo da parte delle amministrazioni. Certo, immagino. Presumiamo anche da parte delle amministrazioni centrali. Grazie Siria Trezzi, sindaco di Cinisello Balsamo. Siamo in provincia di Milano. Ci fermiamo, andiamo a sentire cosa succede sui mercati. A tra poco. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia. I nostri titoli: a Las Vegas, spari sulla folla che assisteva al concerto country, sono 50 le vittime, 200 i feriti. La Catalogna verso la dichiarazione di indipendenza, il presidente catalano chiede una mediazione internazionale. Scende la disoccupazione all'11,2% in agosto, 36.000 occupati in più. Il Nobel per la medicina che va a tre americani per le ricerche su orologio biologico, scusate, e ritmi del sonno. La borsa. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Effetto Giorno. Ed eccoci di nuovo, come sempre, il lunedì, che lo sapete, è una puntata un po' più corta, perché tra un attimo daremo la linea d'America 24 e poi dalle 13.45 alle 14 c'è Autotrasporti, il nostro Andrea Ferro. Come sapete, il lunedì, vi dicevo, è una puntata appunto un pochino più corta. Abbiamo giusto il tempo per darvi un altro paio di notizie. La prima riguarda la vicenda di Marsiglia. La storia ve l'abbiamo raccontata, non ci siamo ritornati oggi alle 13, ma ve l'abbiamo raccontata ampiamente nei GR. È la vicenda di un uomo, un pregiudicato di origini nordafricane, che ha coltellato a morte due ragazze di 17 e 20 anni prima di essere ucciso dalla polizia a Marsiglia. Ieri avrebbe gridato all'Akbar prima di colpire. L'ISIS ha rivendicato l'attacco di ieri, ma da segnalare, da notizia proprio di questi ultimi minuti, che gli inquirenti non hanno finora stabilito alcun legame fra l'autore dell'attacco e l'ISIS, nonostante la rivendicazione di ieri sera, lo rivelano fonti dell'inchiesta affidata all'antiterrorismo. Il che non vuol dire naturalmente che non fosse un terrorista islamico, e qua insomma siamo fuori dalle dichiarazioni della polizia, ma è quello che sto dicendo io. Non vuol dire che non fosse un estremista islamico, ma vuol dire che magari non era collegato al cosiddetto califfato. E questo per quanto riguarda le notizie che arrivano da Marsiglia. Apprendo invece da un ascoltatore, da uno dei nostri ascoltatori più fedeli, che a proposito di utilizzo del guano dei piccioni, soprattutto come consumo, come concime, c'è stata addirittura una puntata di CSI dedicata a questo. Dovremmo andarcela a rivedere e capirne qualcosa di più, e capire se effettivamente queste ipotesi di indagine che stanno facendo per la morte di una signora nell'ospedale di Desio sia anche collegata a qualcosa di questo genere. Adesso ci fermiamo, andiamo a sentire che il nostro Mario Platero con il suo America 24, come vi abbiamo già detto in apertura, non toccherà la vicenda di Las Vegas. Ne abbiamo parlato però con lui in apertura, 50 vittime e 200 feriti, altri temi oggi per America 24, ci risentiamo alla fine per i saluti.